Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eh sì, diamo il via all'appuntamento del soundcheck di Radio 24, puntata numero 204, qui dal Groovemaster Studio. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera al nostro Francesco Tromba, il nostro esperto di comunicazione di massa. Non sbaglio se ti presento come comunicatore. No, è corretto, sono laureato in scienze. Ah, hai gli attestati giusti, sì. Anche se poi questi attestati non servono poi a tantissimo nel nostro paese. A quanto pare forse sarebbe stato meglio entrare prima nel mondo del lavoro. Del lavoro, quindi sì. Da diplomato piuttosto che perdere tempo con l'università, non credo, dai. No, vabbè, è sempre giusto studiare. I miei genitori mi hanno sempre detto che comunque lo studio tiene il cervello in allenamento, ma io l'ho allenato ascoltando molta musica. È anche un metodo alternativo, è sempre un'università, possiamo vedi, dire. Come vedi, mio caro Francesco, io sono molto attento, tu sei entrato nello studio esclamando questa frase, con un bel punto esclamativo, l'ho riportata qui sulla mia agenda. Solo la musica ci può salvare, perché? Perché visti gli avvenimenti, diciamo, con cui è iniziato l'anno, forse l'unica fiducia che possiamo avere nella musica, anche per creare quello che tutti, diciamo, i diplomatici non sono riusciti a creare, la comunicazione. Vabbè, adesso però non ce la tirare, eh? Insomma, cerchiamo di essere positivi. Sì, bisogna sempre essere positivi, però diciamo che l'inizio non è stato dei migliori. Vabbè, dai, cerchiamo di recuperare con il buon umore, anche con la musica che presenteremo in questa puntata, e poi nella seconda parte ti presenterò dei miei amici. Chi sono? Sono i Rimbam Band. Hai mai sentito parlare dei Rimbam Band? Me ne avevi già parlato. E sono dei bravi musicisti che portano in giro per l'Italia uno spettacolo fatto di comicità e musica. E non so che cosa succederà nella seconda parte, ma arriveranno con i loro strumenti e cercheremo di capire anche il perché della loro presenza al nostro soundcheck. Quindi dobbiamo prepararci a tutto. A tutto, prepariamoci a tutto, ma noi siamo sempre pronti, no? Sempre prontissimi. Diamo il via alla puntata presentando i concerti che il nostro Francesco Tromba ha selezionato fra quelli più interessanti presenti nel nostro paese e poi in giro per il mondo la prossima settimana. Partiamo proprio dall'Italia. Che cosa succederà in Italia la prossima settimana? Allora, uno dei concerti da non perdere assolutamente è quello sicuramente di Sergio Cammeriere, che suonerà al Teatro Dal Verme di Milano il 26, lunedì 26. E io sono molto contento per Sergio, perché è tornato discograficamente con un nuovo album molto bello ancora una volta, e poi è tornato a fare i concerti dal vivo dopo un periodo di riposo. Sì, si è preso un periodo di pausa. È giusto così. Allora partiamo con la musica. Questo è il suono del nuovo album di Sergio Cammeriere, il brano, una splendida composizione intitolata Mano nella mano. Sergio Cammeriere al soundcheck di Radio 24. Noi che siamo solo un istante d'amore infinito nel vento che si agita, ma se le mie parole non bastano, se le cose che ora sento sono vere anche per te, e allora vedi amore, io troverò il coraggio e mano nella mano ci proveremo ancora su questa strada. Senza parole ci troverà. Il ritorno discografico di Sergio Cammeriere, il brano era Mano nella mano, e sono molto contento perché questo formidabile pianista, autore e compositore sta ottenendo grandi consensi e grande successo con i suoi concerti in questo momento, dopo un lungo periodo di assenza. Probabilmente si è preso un momento di pausa e di riflessione, però adesso sta andando benissimo. E vogliamo ricordare dove si esibirà Sergio Cammeriere? Sì, allora si esibirà al Teatro Dal Verme di Milano il 26, lunedì 26. Invece il 31 sarà al Teatro Curci di Barletta. Ecco, io ci tengo a informare i nostri radioascoltatori che noi annunciamo i concerti, però non ci assumiamo responsabilità sulla effettiva realizzazione della performance. Sì, no? Diciamo che ovviamente essendo una rubrica settimanale può capitare che un concerto venga annullato per motivi momento, diversi, quindi sì. Noi non ci assumiamo la responsabilità. Sì. Vi consigliamo allora, prima di andare a comprare i biglietti o di recarvi in teatro, di verificare che effettivamente il concerto si tenga. Da Sergio Cammariere passiamo a altri appuntamenti dal vivo nel nostro paese. Sì, domenica 25 al Blue Note di Milano si esibirà Renzo Rubino. Il giovane Rubino. Sì, invece martedì 27 Stefano Bollani sarà al Teatro Manzoni di Pistoia. In che formazione? Da solo, col pianoforte? Credo di sì, credo sia da solo. Invece giovedì 29 in questo nuovo gruppo rock che forse a te non esalta, però comunque devo dire che ha ricevuto delle grandi recensioni, si chiamano il Pan del Diavolo. Pan suonerà del Diavolo, pensa che nome. Suonerà al Circolo Magnolia di Milano. E invece venerdì 30 al Monk Club di Roma si esibiranno gli A Toys Orchestra, che è un gruppo italiano che però canta in inglese. Allora, questi altri appuntamenti segnalati dal nostro Francesco Tromba, e oggi vorrei presentare una produzione recente di un bravissimo chitarrista ma anche un eccellente produttore discografico, ovvero Piero Fabrizi, che ha riunito intorno a sé alcuni amici, e devo dire ci sono molte special guest, una partecipazione di nomi illustri della musica nazionale e internazionale, per realizzare questo album intitolato Primula, Piero Fabrizi and Friends. Tu conosci Piero Fabrizi? Sì, volevo un attimo riassumere un po' i suoi numeri, che sono davvero fuori classe, perché da quello che leggo tramite, diciamo, il suo lavoro, cioè da produttore, compositore, musicista, ha collezionato 16 dischi di platino, vincendo ben 5 Targhe Tenco. Come producer? Sì, come diciamo. Beh, ha prodotto per anni album importanti di Fiorella Mannoia e di tanti altri artisti di riferimento del nostro paese. Ha lavorato praticamente con tutti i maggiori artisti pop italiani. E allora finalmente ha trovato il tempo di sfoderare la sua chitarra, anzi le sue chitarre. Avrei notato che in questa fotografia all'interno del booklet Piero Fabrizi è circondato da una serie di chitarre meravigliose, più o meno sì, fra 20-30 chitarre, una fotografia che potrei definire un blues barocco. Sì, abbastanza barocco. Abbastanza barocco. Allora, il brano che abbiamo scelto per presentarvi questo album, lo ripeto, Piero Fabrizi and Friends, intitolato Primula, è una composizione scritta con Chico César. Il brano si intitola Clandestino. Un riso di un menino che nei nasi chora, a pavora con una sciotta da orfana, maior che o plenário da ONU, e a lágrima do grão mestre da Ku Klux Klan. Soundcheck, il suono della musica. La voce della bravissima Chiara Civello in If You Ever Think of Me, una sua composizione tratta dall'album di qualche anno fa intitolato Space Between. Chiara Civello, protagonista della scena italiana nel mondo, da un po' di tempo vive fra il Brasile, credo che abbia abbandonato completamente New York, forse per motivi climatici, ma certo anche lei ha la passione per la musica brasiliana e da un po' di tempo frequenta più il Brasile che il nostro paese, però è in Italia per proporre la sua musica e fare i suoi concerti. Tra l'altro l'ultimo disco, che è stato primo nella classifica del jazz di iTunes per diverse settimane è stato prodotto dal nostro amico Nicola Conte. Allora, Chiara Civello sarà in concerto in Italia dove, Francesco? Sì, giovedì 29 sarà al Bravo Caffè di Bologna, sì. E invece venerdì 30 sarà al Pub Il Moro di Cava dei Tirreni. Ecco, fra le cantanti italiane tu come consideri Chiara Civello? Ah, è sicuramente una delle migliori, diciamo, una di quelle che è riuscita comunque a proporre un'alternativa al pop convenzionale, facendo, diciamo, un jazz un po' più per una platea un po' più ampia, diciamo. Ampia, pur restando sempre un'artista raffinata, no? Sì, sì, nel tocco. Sicuramente. Tra l'altro, lei ha iniziato con il jazz, poi si è spostata a New York, dove ha studiato e ha fatto gran parte della sua carriera con album prodotti per una multinazionale, incontrando anche autori come Burt Bacharach e grandi produttori discografici. Però lì a New York c'è un'altra cantante che sta andando benissimo ormai da tempo, che è considerata, pensa te, la Ella Fitzgerald bianca, che è la nostra amica Roberta Gambarini, che vorrei contattare magari anche via Skype per chiederle come sta. Che cosa sta facendo? Contattiamola nei prossimi giorni. E magari. Poi a New York in questo momento c'è un'altra ragazza giovanissima che sta studiando e sta facendo il suo percorso, che è già stata ospite del Soundcheck, che è Chiara Izzi. Insomma, tanto per raccontare che le voci italiane, soprattutto quelle femminili, in questo momento all'estero sono comunque richieste e stanno andando benissimo. Passiamo, allora, dicevamo di Nicola Conte, la collaborazione fra Nicola Conte e Chiara Civello per l'ultimo album di Chiara Civello, ma anche Nicola ha realizzato un album recente, lo ha presentato qui al Soundcheck. Ti piace Nicola? Sì, tantissimo, è uno, diciamo, dei, diciamo, pionieri italiani, potremmo dire, perché comunque è riuscito a proporre un genere che in Italia non veniva quasi considerato e ha raggiunto il successo, utilizzando molto spesso nelle sue composizioni ritmiche Latin jazz degli anni 60, che poi è un sound che è stato recuperato anche da Mario Biondi. Sì. Però bene, l'ha fatto prima. Allora vediamo che cosa ha combinato Nicola Conte nell'ultima produzione. Qui la voce è quella di Marvin Parks, il brano è Shades of Joy. Nicola Conte al Soundcheck di Radio 24. Shades of joy all around. This time I wanna love. Turn your face to the light. This time I wanna love. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Praticamente un paio di volte all'anno anche Frank McComb, cantante e pianista californiano, si affaccia nel nostro paese per proporre la sua musica e la sua vocalità infinita, che molto si rifà a Donny Hathaway e Stevie Wonder. Frank McComb, uno degli artisti più richiesti anche nel circuito jazz americano, qui al Soundcheck con una sua composizione da un album di qualche anno fa intitolata What You Gonna Do. E Frank McComb infatti sarà in Italia nei prossimi giorni. Sì, domani sarà alle cantine dell'Arena di Verona ed è quasi un mese che Frank McComb è in Italia, diciamo quasi tutto il gennaio se l'è fatto in Italia. Non è che si è fidanzato? Non lo so. Perché vedo che molti musicisti americani arrivano qui e dopo una settimana si fidanzano e a volte si sposano. Beh, le donne italiane sono fra le più invidiate, diciamo. Tu dici? Eh? Sì. Allora, Frank McComb in Italia, abbiamo annunciato i suoi concerti, ma possiamo anche spostarci adesso dall'Italia Italia, a meno che non ci sia qualche altro concerto da annunciare nel nostro paese. Sì, qualche altra cosa c'è, come ad esempio Stefano Bollani, l'abbiamo già detto. Sempre martedì 27 Tino Tracanna suonerà all'Auditorium Parco della Musica per l'iniziativa Recording Studio, quindi diciamo registreranno il disco dal vivo insieme a Paolino Dalla Porta, Mauro Ottolini, Antonio Fusco e Roberto Cecchetto. Quindi diciamo una gran formazione. Assolutamente sì. Tantissimo tutti questi musicisti. Sempre il 27 Paolo Fresa e Bebo Ferra suoneranno a Padova al Q Bar. Paolo bravissimo, e Bebo Ferra non è da meno con la sua chitarra. Per l'Italia diciamo che più o meno ci siamo. Un ultimo concerto, Emanuele Cisi suonerà al Borgo Club di Genova. Anche Emanuele sta facendo insomma ormai è un veterano, ma anche lui è molto apprezzato lì a New York negli Stati Uniti. Bene, vogliamo spostarci a Londra velocemente? Sì, allora Londra diciamo che praticamente una settimana ricca di concerti. Partiamo dal 28 in cui suoneranno Nene Cherry insieme ai Rocket Number 9 all'Electric Ballroom. Sempre il 28 ci sarà Ghost Poet al Chats Palace. È un rapper londinese, sì. Molto bravo, devo dire. Giovedì 29 Eugenio Finardi suonerà al Dingwalls. Sì. E poi mi sa che dal 28 al 31 c'è anche un festival festival a cappella, sì, si chiama, no? Deve essere quindi, interessante. Sì, varie formazioni. Tra l'altro ci saranno anche i veterani come gli Swingle Singers e poi nuove band a cappella come Straight No Chaser, Annuna e The Kings Singers. Sì, è il 29 invece ci sarà Andy Shepard insieme a Dylan House al Walter Mill Jazz Club. E il 30 e il 31 ci sarà Alice Russell. Che bello, dove? Al Jazz Café. Allora, guarda, facciamo una pausa perché poi andiamo all'informazione di Radio 24, poi accoglieremo i nostri amici della Rimbam Band. Alice Russell, questa l'ultima fatica discografica intitolata I'm the Man That Will Find You. Hey, I never get it all right. Be my baby, and I will wait for you all night long. Be a minute, 'cause I've been waiting a long time for you. Soundcheck, il suono della musica. Diamo il via alla seconda parte del Soundcheck di Radio 24, così come abbiamo annunciato nella prima parte, sono arrivati con il loro furgone carico di vettovaglie gli amici della Rimbam Band, rinomata band pugliese che sta girando l'Italia con il loro spettacolo che coniuga la passione per la musica e per i loro strumenti, ma anche con il sorriso. Non è male questa presentazione, credo che non mi verrà mai più così, una presentazione per la Rimbam Band. Mio caro Francesco Tromba, ti chiedo di introdurre la band con nomi e cognomi. Sì, allora, Raffaello Tullo è la voce e le percussioni. Buonasera. Eccolo. Renato Ciardo invece alla batteria. Buonasera a tutti, ciao. Vittorio Bruno al contrabbasso. Ciao, buonasera a tutti. Nicolò Pantaleo al sax e tromba. Ciao a tutti, buonasera. E Francesco Pagliarulo, detto il Rosso, al pianoforte. Buonasera a tutti, ciao. Bravissimo. Hai visto che voce da rosso che ha? Sì, molto rosso. Ecco, il rosso non politicamente, ma il rosso proprio fisicamente. Sì, hai i capelli rossi. Allora, Francesco... Sì, devo dire, Gege, scusami, che noi non siamo venuti qua con le tovaglie, siamo venuti qua con gli strumenti. No, ho detto con le vettovaglie che avete nel furgone. Mi avete portato tutto quello che vi avevo richiesto dalla cara Puglia? No. Mozzarelle, taralli e strascinati con le cimbirate. Certo, ci hai aperto solo per quello. Infatti è diciamo proprio così. Che di base è stata perché trovata, la domanda sorge spontanea: perché una band come Rimbam Band è presente qui nel Groovemaster Studio solo per motivi alimentari? Ah, quindi proprio se lo sono meritato, diciamo. Vabbè, se lo sono meritato e le cose vanno così, no? C'è un prezzo da pagare. Maestro, ma il nostro obiettivo, e lo dichiaro qui apertamente. Intanto grazie per il maestro, vedi come sono carini? Ma soprattutto grazie per aver accettato il nostro auto invito coatto, questo è importante. Sì, devo ancora capirne il motivo, ma me lo ce lo stiamo chiedendo voi. Tutti, ma io le spiego il motivo per cui la Rimbam Band si è precipitata qui a casa Telesforo, sì. Casa artistica Telesforo. Beh, casa studio. Con le tovaglie. Basta, perché noi abbiamo una serissima intenzione di abbandonare i panni di Rimbam Band e di aprire una radio. Ma questa è una bellissima iniziativa. Una Rimbam Radio. E dove volete aprire la radio? In Puglia, a Bari. In Puglia. Vedi, caro Francesco Tromba, tu che sei laureato in comunicazione, dovresti apprezzare queste nuove iniziative che servono poi per divulgare messaggi importanti, mi auguro, messaggi musicali all'altezza del nostro paese. Lo apprezzo. Parliamo di progetto editoriale, di che tipo di musica... Avete notato che il comunicatore piace, fa domande... Molto. Parliamo del progetto editoriale di una precisione disarmante. Noi abbiamo intenzione di diffondere la musica vintage, quindi la musica anni 30, anni 40, dei Sempreverdi, Buscaglione, Carosone, Arigliano. Toni Dallara non è proprio assolutamente nei nostri progetti artistici. No, come non è? È più vintage di lui, Toni Dallara. È l'unico che è rimasto. Come prima, Toni Dallara non rientra nelle nostre intenzioni artistiche, ma i suscitati assolutamente sì. Quindi Buscaglione, Carosone, Arigliano, siamo qui per rubarvi l'anima. Diamo delle mozzarelle di bufala per rubarvi i trucchi del mestiere. Non so. Addirittura, sono carini, no? Stordiscono col cibo per rubarci i segreti. Per rubarci i segreti della radio. Bene, quindi la vostra sarà una radio musicale? Una radio musicale. A tutto tondo? A tutto tondo, no, a tutto tondo. Con il gusto vintage del vinile. Ecco. Io credo che una radio contemporanea non possa dimenticare la forma e la struttura del blues, che è sempre fra di noi. Brivido Blues di Toni Dallara. E sento un brivido blu. Ma non ci interessa, Toni Dallara. Chi sei tu? Gege, io. Perché è fissato con Toni Dallara? Non lo capisco. Qua? Io mi scuso per il nostro batterista indisciplinato, ma insomma è così. Ce lo dobbiamo piangere così. Vabbè. Bene, avete già organizzato la playlist? La playlist? Sì, allora, come prima, Brivido Blu, Ghiaccio. Ghiaccio bollente, ecco, ci parte con Norma, da quando conosco te. Ecco, tutta la discografia di Toni Dallara. Capito? A me non dispiace Toni Dallara, però aprire proprio quando vi verrà assegnata la frequenza, dare il via a una comunicazione radiofonica solo con Toni Dallara mi sembra esagerato. No, invece no, sta bene. Partire invece con qualcosa di più classico. Proprio. Radio Toni Dallara. Radio Toni Dallara. Ecco, chiamala, fai la tua personale, la chiami Radio Toni Dallara. Da quando conosco te, si poi a un certo punto entra lui con la tromba e fa parararara, io vivo pensando. Andiamo a avanti, è maestro. Fissato, è malato. Fissato, allora andiamo con la musica. Vi faccio subito un esempio di blues in chiave latina. Avete capito ci piace, ho detto? Okay. Avete mai sentito parlare di Poncho Sanchez? Sì, Poncho Sanchez, ho visto un film. Dai 40 ladroni. Sì. Poncho Sanchez ospita Ray Charles in Mary Ann, un vecchio blues qui al Soundcheck di Radio 24 con nostri ospiti i Rimbam Band. Well now, oh Mary Ann, I can love you all the time. Soundcheck. Il suono della musica. Thank you. inglese pianista Jason Ribello con la partecipazione della vocalist Joy Rose in New Joy qui al soundcheck di Radio 24, nostri ospiti appena giunti dalla Puglia, e si sente anche l'olezzo perché col furgone con il quale viaggiano, certo, l'atmosfera tipica del cacio ricotta si fa sentire anche della sugli stracinata abiti, anche, dell'inchiuso, dell'inchiuso. Io ancora non ho capito i loro meriti per essere invitati hanno intanto un merito, che sono pugliesi e sono miei amici, e questo è già un bel merito. E il merito è alimentare. Beh, però non è proprio il massimo. Pensa quanto ho fatto per te che sei calabrese e non c'è niente con la Puglia. Ma io me lo merito. Ah, per meriti, e certo, sei laureato, è l'unico laureato. Chi è laureato fra di voi? Io non mi sono laureato per 4 esami. Pizza. Sono un pirla, lo possiamo dire. In cosa, scusa? In lingue. In lingue, hai capito? Quasi laureato, ma guarda che per un pugliese è già una cosa forte, quasi laureato. Ma la cosa bellissima è che ho lasciato per fare la rimbambella, pensa te come è meraviglioso, bravo, complimenti, ti do la mano Raffaello. Grazie, bravo. No, cretino, ma adesso vorrei chiedervi, voi fate centinaia di spettacoli ogni anno in giro per l'Italia, non solo in giro per la nostra Puglia, con una formula abbastanza chiara e vincente, qual è? La formula chiara e vincente non è Tony Dallara, questo no, l'abbiamo, è l'abbiamo Tony Dallara. Non è Tony Dallara. La formula vincente è una comicità comunque genuina, mai volgare, che cerca di coniugare diversi linguaggi artistici. Oltre alla musica c'è il clowning, il tip-tap, il teatro dell'assurdo, il rumorismo fatto con gli strumenti, che un po' fa dimenticare al pubblico che non siamo molto bravi a suonare. Quindi sto scherzando. Ovviamente. No, non è vero, perché invece sono bravissimi sul palco con i loro strumenti, e poi c'è anche un momento molto divertente quando faccio Tony Dallara Dallara è bello quando fai Tony Dallara, è favoloso, è bellissimo. Però mi piace molto quando invece girate intorno agli strumenti suonate a 8-10 mani il pianoforte, quello è molto forte. Ah sì, grazie. L'abbiamo anche pubblicato sul web, su YouTube. Cioè. Ecco, per seguire le vostre vicende artistiche, che bisogna fare in internet? Una fanpage molto attiva su Facebook, che è la Rimbamband, poi c'è il nostro sito rimbamband.it con il nostro calendario aggiornato praticamente in tempo reale, e basta. E basta, ci sono impegni dal vivo? Sì, siamo nel cuore di un tour che ci vede impegnati da ottobre. Di so che avete appena fatto 10 giorni a Firenze. 10 giorni a Firenze, sì, saremo a Milano. È andata bene? L'unico problema è che abbiamo dovuto fatturare tutto. Dai! a Firenze si fattura. Da Roma in su si fattura, lo sai. Lo so. Beh, già che vi abbiano pagato per non suonare. Sold out ogni sera, dal 9 al 18. No, è andata molto bene. Lui è così, scherza troppo. ci aspettano ancora Napoli, Torino, Milano e tante altre date che potete, insomma. Naturalmente avete fatto vidimare il passaporto per uscire dalla Puglia. Ovviamente. E attraversare le altre regioni. Mi sembra una bella cosa. Tromba, tu hai dei quesiti? Sì, allora, innanzitutto non mi avete ancora spiegato perché vi chiamate Rimbamband. Rimbamband perché lo hai visto, siamo una banda. Tu perché ti chiami Tromba? Scusa, spiegacelo. È il mio cognome, non l'ho scelto io. Noi ci chiamiamo Rimbamband. Noi ci chiamiamo Rimbamband perché abbiamo capito subito che oltre a suonare sappiamo anche fare i cretini, quindi mettendo insieme la musica e la nostra idiozia viene fuori, non può che venire fuori una Rimbamband. Quindi il Rimbamband è il nome che sintetizza perfettamente le sfumature del nostro essere. Hai visto come mi esprimo bene nonostante non sia laureato? Sei fortissimo, infatti sei pronto per fare radio e farei annunciare proprio per dargli la possibilità di fare una sorta di audizione di provino a Renato Ciardo, sì, il nuovo singolo di D'Angelo. D'Angelo, il fratello di Nino? Di chi? Di fratello di Nino? No, non è il fratello di Angelo. No, 15 anni. È parente lontano di Angelo, dai, il campione del New Soul che è tornato dopo 14 anni. Lui, sì. Non avevo capito. Secondo me non sa neanche di cosa stiamo parlando. Chi è che non conosce D'Angelo? Vabbè, dove siamo? Presenta D'Angelo and the Vanguard, il brano si intitola Sugar Daddy. Allora, il prossimo brano è di Tony Dallara, intitolato D'Angelo. È giusto? È giusto. Yeah. Soundcheck, il suono della musica. Pronti di nuovo con il soundcheck di Radio 24, Rimbam Band, ospite del programma, e quindi lascio la parola al Roche, ovvero Francesco Pagliarulo, in arte pianista della band, per annunciare il brano che abbiamo appena finito di ascoltare, tanto per fargli un'audizione, Francesco. Sentiamo. Dai. Chi erano? Ma veramente io devo dire. Sì, ci siamo messi d'accordo così. Fat Freddy's Drop erano. Fat Freddy Droppo. Sì, Droppo. E il brano si intitola Clean the House. Clean the House. Sì, te l'avevo detto 10 volte. Lo so, ma non me lo sono emozionato. Che problemi ha questo ragazzo? Un problema di timidezza cosmica. È uno degli uomini più timidi del mondo. Come fa a frequentarvi? Lui suona. Così. Suona, è molto bravo sul pianoforte, ma quando parla come hai potuto constatare, è un vero disastro. Tu pensa che sta per diventare pure padre. È vero. Non so come abbia fatto. Beh, è capace però, che si sblocca però. Questa è una triste verità, soprattutto per il nascituro, diciamo. Io direi di continuare la presentazione degli altri elementi della band. Ecco, questo signore che puoi descrivere fisicamente è Francesco Tromba. Sì, ha dei bei capelli, diciamo. Tanti capelli, anche se è un po' stempiato. Però. Sta ballando, ma qualcuno deve spiegargli che siamo in radio. Sta roteando come un derby. Però se non dice neanche una parola il tutto non funziona. Cosa devo dire? Si presenti, dica qualcosa. Buonasera a tutti, sono Vittorio Bruno, il contrabbassista della band, contrabbassista stralunato. Per quale motivo stralunato? Perché noi, diciamo, nello spettacolo cerchiamo di amplificare gli aspetti più buffi e grotteschi. Vedi, parla sempre lui però, perché gli altri hanno dei problemi. Delle nostre personalità, e siccome lui è un pochino distratto alle volte, allora stralunato. Enfatizzato questo suo aspetto e lo abbiamo portato in scena, giusto? Giustissimo. Anche se sono abbastanza attento nella vita, attento e preciso. Ogni tanto vado un po' per la mia strada, insomma, mi perdo, dei vuoti di memoria. Ho una domanda per lei. Mi dica. Che si prova a essere come lei? Non lo so. L'inconsapevolezza. Come me, cosa si prova? Non lo so. Me lo domando, io quando incontro gente così mi faccio questa domanda. Che si prova a essere come lui? Forse niente. Non è male di questi tempi, no? E tutti sono egocentrici. Vabbè, allora direi di tornare alla musica e nel frattempo potete prepararvi e... Fare un pezzo? Possiamo fare qualcosa. Brivido blu. Così perlomeno ancora, no? Così giustifico la vostra presenza, soprattutto nei confronti di Francesco Tromba, ma poi del pubblico di Radio 24. Vorremmo fare un pezzo... Prima dobbiamo presentare... Nicolò, è vero, Nicolò. Anche lui fa parte di questa band. Farei parte di questa band anch'io. Sono Nicolò e sono il sassofonista della Rimba Band. Bene, che buonasera, si prova a essere come il lei? Il sassofonista della Rimba Band. Sì. Io in realtà volevo suonare nella banda di Capurso, però non me l'hanno più concesso. E quindi mi hanno strappato dalla... Beh, è un comune del Barese. Metti che a Cerignola non lo sanno. Cerignola. Bene, quindi lei ha studiato musica? Sì. Ho studiato musica e mi sono diplomato in conservatorio però poi è finita male. Mi sono imbattuto, è andata nella Rimba Band. Non volevo malissimo. Che finisse peggio così. Per lui. Infatti. Vabbè, allora chi mi annuncia? Lei fa il sassofonista? Sì. Allora mi può annunciare Javon Jackson, che è un suo collega tenorista con Fred Weasley, e fanno House Party. Allora, il prossimo brano che ascolteremo sarà di Javon Jackson, sì, e Fred Weasley, sì, e non riesco a leggere il nome del House Party. House Party. Che strumento suona Fred Weasley? Il grammofono. Fred Weasley suona il grammofono. Sì, ecco. I can't go to the movies, I ain't got fare. I like to make the disco, but I haven't got a thing to wear. I'm gonna get my stereo and call up everyone. Come on over to my house and let's have some fun. Gonna have a house party. Gonna have a house party. party. Gonna have a house party. Everybody come on, get down. Soundcheck, il suono della musica. La Rimbam Band è ospite del soundcheck di Radio 24. Direi, mio caro Raffaello, di verificare qui nel Groovemaster Studio il potenziale sonoro, ritmico e musicale della Rimbam Band. Che cosa possiamo fare con gli strumenti a vostra disposizione? Visto che abbiamo parlato di musica vintage e di vinile, farei proprio un tributo all'ormai compianto vinile, all'ormai compianto giradischi. Se i miei compagni sono pronti, siamo pronti. Farei proprio un tributo all'ormai compianto giradischi. Ecco, visto che parliamo di registrazioni e di riprese vintage, io vorrei precisare che questa è una ripresa acustica nel vero senso della parola, perché abbiamo posizionato un vecchio microfono Neumann valvolare per pescare tutti gli strumenti così come venivano realizzati i dischi negli anni 30. Bellissimo, quindi fatevelo piacere, ecco questo. Ecco, sì, tanto per giustificare anche quello che farete. Esatto. Quindi come si chiama questa avventura? Come prima. No, basta, come prima, il tributo all'ormai compianto giradischi. Bene, questo è il tributo... Carina di Buscaglione. Carina di Buscaglione in un tributo al vinile. Bene, Rimbam Band al soundcheck dal vivo. Anirak, we pin roigi to the nevian. Anirak, Anirak. Rina, tu sei fatta per amare. Ba ba ba ba. Carina, carina, tu sei fatta per amare. Applauso, fatevi un applauso. Rimbam Band, questa è la partecipazione di Rimbam Band al soundcheck di Radio 24. Chiedo subito un commento a caldo al nostro esperto in comunicazione su questa performance che voglio precisare ricordava, non so se ti ha ricordato, il vecchio vinile sul grammofono. Beh, sono dei cialtroni veri e propri. Perché dici così? È perché non sa che cosa vuol dire vinile, cioè è molto giovane, insomma. Quanti anni hai, tromba? 26. E c'ha 27 anni. Puoi esprimere in italiano, visto che siamo su una rete nazionale. Detto che ha 27 anni, quindi a 27 anni ci può anche stare che lui non conosca il vinile. Vabbè. So bene cos'è il vinile, però voi rimanete dei cialtroni. Ma questa è la formula magica del successo di Rimbam Band, portare in giro per l'Italia un frullato di emozioni che vanno dalla perizia strumentale alla cialtroneria, no? Vi è piaciuta questa? Bellissimo, è un prefabbricato, diciamo. Prefabbricato. Non so, è più ignorante lui che cialtrone. Ma... Sì, lui è proprio ignorantissimo. Però vedo che hai ancora il desiderio di esprimerti in Dallaresco, la tua vecchia passione, sì, per Tony Dallara. Allora, siccome abbiamo ancora pochi secondi a nostra disposizione, dopodiché facciamo partire l'ultimo brano, sì, e vi lascio con un altro blues della meravigliosa Dinah Washington. Ah, ho capito chi è. Non c'è tempo. Tromba, tromba, tromba, come no, no, no, no, lo sai che questa potrebbe essere la tua sigla d'ora in poi? Di presentazione. Di presentazione, sono Francesco Tromba, tromba con me, la rubrica, il nome della rubrica, non è male. Beh, non sarebbe male. Non avevano mai fatto battute di questo tipo sul tuo cognome? No, neanche una, guarda. Me l'immagino. Grazie a Rimbam Band, noi ci risentiamo domani per il soundcheck della domenica, e quindi Dinah Washington con Backwater Blues, grazie a Francesco Tromba, grazie a Rimbam Band. Ciao, grazie. Salutatevi con un cenno di pace. We're on this Bessie Smith series, and with Max Roach, Paul West, and Wynton Kelly, I'd like to do one of Bessie's most soulful tunes. It's called the Backwater Blues. When it rains 5 days the skies turn black as night.